Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? C'ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va per mostre, a cominciare da Sant'Ilario d'Enza, dove il comune ha allestito questa mostra che è la biografia e il percorso incredibile dell'attività di Carlo Pagliarini, che sappiamo essere il creatore, l'inventore dell'Associazione Pionieri Italiani, che è proprio nato a Sant'Ilario e che è ancora in questa cittadina del Reggiano, ha tanti ex pionieri presenti e che hanno affollato la vernice, l'inaugurazione della mostra medesima, che peraltro presentava anche l'illustrazione del libro Associare i ragazzi, Carlo Pagliarini, proprio edito dal CRAP. Di questa mostra ne abbiamo parlato con Giorgio Casamatti, che ne ha curato l'allestimento, anche se diciamo subito, e lo dirà lui stesso, che è una mostra che ha contribuito l'intero paese votando i cassetti di ricordi e delle foto che avevano appunto sulla vicenda dell'Associazione Pionieri Italiani in quel Sant'Ilario d'Enza medesimo. Dopo lo stacchetto musicale, l'intervista di Morena Moretti. Giorgio Casamatti, tu sei tra i curatori della mostra I Pionieri a Sant'Ilario, e che si occupa appunto, racconta attraverso le fotografie la storia dei pionieri in questo paese. Come nasce questa idea e che tipo di lavoro avete svolto? Beh, soprattutto è stato sensazionale l'apporto dato dagli ex pionieri, che a distanza di quasi più di 50 anni anche da questi eventi avevano conservato praticamente tutti i materiali relativi all'associazione, permettendo di ricostruire anche tramite un loro diario che tenevano praticamente settimanalmente tutte le attività svolte dall'associazione. Tramite questa raccolta abbiamo potuto quindi selezionare da una miriade di materiali una parte delle cose più importanti per raccontare come anche in un piccolo paese come Sant'Ilario si fosse sviluppata questa associazione, che poi tramite anche i legami internazionali ha consentito a molti ragazzi anche di fare esperienze importanti all'estero, anche a livello nazionale. E questo per celebrare anche la figura di un nostro concittadino, Carlo Pagliarini, che è stato appunto uno degli organizzatori dell'Associazione dei Pionieri e che anche ha partecipato in alcuni casi ad iniziative che si sono svolte qui in paese. E di che anni stiamo parlando? Qua si tratta di una seconda, praticamente la seconda fase un po' della storia delle associazioni dei pionieri, che dopo la fondazione negli anni 50 in alcuni comuni, soprattutto anche qui in Emilia Romagna, erano state rifondate nei primi anni 70, e in particolare l'associazione Pionieri di Sant'Ilario, dedicata ad Allende, è stata fondata nel 73 ed è durata fino quasi alla fine degli anni 70, quindi al 1979-80. Quindi la mostra è cronologica? È una mostra cronologica, sì, e soprattutto si vuole far vedere un po' la moltitudine delle attività che svolgevano questi ragazzi, sia in ambito locale con la partecipazione a manifestazioni legate agli eventi un po' storici come il 25 aprile e il 1 maggio, gli incontri, i campeggi qua nella zona, e anche e soprattutto tutte le attività a livello internazionale che hanno portato molti di questi ragazzi per la prima volta anche in esperienze all'estero, nei paesi europei ma anche extraeuropei. Alcuni sono andati addirittura ad esempio in un campeggio a Cuba a metà degli anni 70. E oltre a questo un po' racconta anche una serie poi di rapporti di amicizie anche internazionali che, oltre a cementare i giovani del paese, hanno consentito a questi ragazzi poi di mantenere dei rapporti con altri pionieri stranieri, soprattutto qua a Sant'Ilario con la delegazione polacca, che sono durati poi per molti anni, anche quando erano già tutti cresciuti.

che ha scritto un racconto molto particolare, struggente, di un anziano che parla con il nipote, quindi c'è tutto questo racconto che gioca su questo dialogo, e poi si scopre che il nipote scopre che l'anziano è morto molto tempo prima a causa dei cambiamenti climatici e che quindi lui parla con un ologramma. È un racconto davvero molto, molto struggente. Non mi dispiacerebbe riuscire a fare un catalogo se avessimo il supporto di una sponsorizzazione importante alle spalle, perché sarebbe bello che il catalogo poi magari finisse nelle scuole per diventare un supporto per gli studenti. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Fino al 1° maggio si può visitare a Firenze al Museo del Novecento la mostra dedicata a Vinicio Berti, pittore toscano del Novecento. Berti è ben conosciuto dai lettori del Pioniere in qualità di disegnatore di chiodino e automino inventati da Marcello Argilli. In realtà per Berti essere fumettista era uno dei diversi aspetti della sua militanza comunista ed artistica, una dimensione creativa che ne fece un importante esponente dell'astrattismo toscano. Il Museo del Novecento, in queste celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del pittore, per l'occasione eccezionalmente espone un trittico di Vinicio Berti, oggetto di un restauro portato a termine proprio per la mostra, combinato pittorico rilevante nella carriera di quest'artista, che segna il passaggio tra una fase e l'altra della sua ispirazione. Morena Moretti ha interpellato Eva Francioli, che assieme a Sergio Risaliti ha curato questa esposizione. Dopo lo stacchetto musicale sentiamo le sue parole. Sta svolgendo a Firenze, al Museo del Novecento, un'importante mostra delle opere dell'artista Vinicio Berti, è il centenario della nascita. Volevo chiederle, Eva Francioli, se ci può presentare, perché devo dire, pur essendo un grande artista fiorentino, però è un po' dimenticato, ecco, quindi che cosa ci può raccontare e come possiamo inquadrare anche la figura di artista? Beh, un grande piacere per parlare di questo progetto, è piccolo ma è molto importante per noi, perché appunto tende a ricordare questo artista fondamentale della storia dell'arte fiorentina, toscana, ma non solo, Vinicio Berti, un artista di cui nel 2021 si è celebrato il centenario della nascita e per questo appunto a dicembre abbiamo inaugurato questo focus dedicato alle sue opere. Un artista molto importante ma purtroppo non ricordato dalla critica, non menzionato spesso anche negli stessi manuali di storia dell'arte, eppure è un artista che ha fatto la storia dell'astrazione in questo paese, è stato insieme ai suoi colleghi dell'astrattismo classico un pioniere dell'astrazione geometrica nell'Italia del secondo dopoguerra, per cui già dal 1947 Vinicio Berti si è impegnato, si è cimentato appunto nella realizzazione di opere di tipo non figurativo, che avevano però un forte messaggio politico, un forte messaggio di impegno civile e politico. Era astrattista e comunista, esattamente come gli artisti romani di forma. Era un artista politicamente impegnato, per cui le forme astratte non erano forme che andavano a decorare palazzi, appartamenti, ma erano opere basate su alfabeto essenziale, fatto di vino, di colori, che l'artista che doveva partire dal basso e che doveva rivolgersi a tutte ovviamente le classi sociali, in primo luogo appunto le classi sociali più basse, proletariato, quindi insomma dovrebbe essere un linguaggio universale, un linguaggio nuovo, un linguaggio carico anche di speranza e di messaggi di lotta per un nuovo futuro, ecco, per un avvenire migliore. Quello che noi abbiamo voluto fare al museo è indagare quello che è stato il periodo immediatamente successivo alla stagione dell'astrattismo classico, che qualche anno fa la vedova dell'artista ha donato un importante nucleo di opere al comune di Firenze, e quindi nei nostri depositi abbiamo moltissime opere dell'artista, e abbiamo deciso di esporre un nucleo estremamente ridotto, si tratta di 3 dipinti, ma appunto un nucleo significativo di un momento di svolta fondamentale nel percorso artistico di Vinicio Berti. Il trittico non è mai stato esposto prima? Allora, no, è praticamente un trittico inedito, inizialmente a partire da una riflessione di carattere stilistico e a partire da una riflessione su quella che è stata la data di realizzazione delle opere stesse, tutte risalenti alla tarda primavera del 1955. Dietro ad uno dei pannelli, oltretutto, si trova tuttora una scritta appunto dello stesso Vinicio Berti, in cui si allude ad un trittico il quale appunto quel pannello avrebbe costituito la prima parte, e quindi per questo abbiamo deciso di riunire queste opere e di mettere in scena quella che è una vera e propria narrazione con la quale Vinicio Berti ci mette di fronte alle difficoltà e all'ostilità di un ambiente che ha sempre amato, l'ambiente della sua città Firenze, nei confronti della quale ha sempre avuto comunque sia un rapporto estremamente complicato, profondamente conflittuale. E quindi c'è questa narrazione che parte dalla messa in scena di questa città e che si compie finalmente nella comparsa di queste presenze umane. Come dicevo, sono opere che risalgono ad una fase estremamente delicata nel percorso personale e artistico di Vinicio Berti. Nel 1947 inizia a realizzare le sue prime opere astratte, lo fa in stretta collaborazione con alcuni artisti che lo affiancano nella vicenda appunto poi nota come la vicenda del gruppo di arte d'oggi e di astrattismo classico. Sul finire del 1950 il gruppo si sgretola, iniziano a comparire dei dittatori e gli artisti dell'astrattismo classico iniziano dei percorsi individuali, ed è proprio in questa fase che si collocano le opere appunto della primavera del 1951 che abbiamo esposto. Quindi una crisi personale di relazione, ma anche stilistica, per cui progressivamente Vinicio Berti abbandonerà l'astrazione per rivolgersi ad un linguaggio che in qualche modo recupera alcuni elementi figurativi più facilmente e immediatamente riconoscibili. E in questi 3 dipinti che noi abbiamo selezionato appunto vediamo come si parta da una composizione radicalmente e totalmente astratta nell'opera Costruzione realtà totale, si legge il pannello numero 1 del trittico L'umanità costruisce, e vediamo come poi la narrazione si completi con un dipinto in cui compaiono delle figure umane, delle presenze umane, che è proprio il titolo dell'opera stessa. Sono delle natività e sono quasi delle figure con una forza scultorea all'interno di questa fitta selva di disegni neri, quindi fortemente quasi graffiati, ecco, potremmo dire, un tratto molto rigoroso e netto all'interno del quale appunto si stagliano queste figure. Il tutto idealmente è completato dal simbolo di verità, da questa falsa il martello che sembra guidare idealmente verso appunto un avvenire migliore, un futuro migliore. Yeah.